versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, rieccoci in questo martedì 2 di settembre e ne approfitto per dare una risposta a coloro che all'indirizzo scrivete per segnalarci temi di trasmissione, critiche, opinioni, ma soprattutto per proporre temi di trasmissione, ospiti, oppure proponetevi anche voi direttamente, come abbiamo fatto tante volte. Lo ripeto, l'indirizzo è la versione di Oscar, tutto attaccato, tutto minuscolo, @radio24.it. E molti ieri alla ripresa hanno scritto: ma insomma, ancora una volta con DSDS. Allora, questa, perdonate, io lo ripeto per l'ennesima volta dopo anni. Non chiedo di meglio che vedere numeri che testimoniano che nella ripresa della crescita, del reddito delle famiglie, dell'occupazione, eccetera, eccetera, ci consentano di dire con una ragionevole convergenza, pur avendo opinioni diverse, ragazzi, la caduta è finita. E abbiamo una ragionevole prospettiva come paese di recuperare almeno parte di quei 9 punti di PIL, 14 punti di reddito pro capite, 27 punti di investimento percentuale in meno che abbiamo rispetto al 2007. Però datemene atto, fino a questo momento, tenere questa apertura di trasmissione con questa musica, Reggio Morris, che non si discute, non è stato un'impuntatura mia, perché vi ripeto, la cambio domani. Non appena però vedo qualche cosa che, non solo ai miei occhi, ma occhi di tanti più autorevoli di me, ci confermino che l'abbiamo imboccata la strada giusta. Datemi atto però che qui la strada giusta da anni non l'abbiamo imboccata. Speriamo di cambiarla questa stagione, questa musica. Io non voglio niente di meglio che non apparire ai vostri occhi come un menagrano. Purtroppo non si è trattato di tirariella, ma di essere ragionevoli, di non promettere le cose che poi non avvengono, di saper vedere nei numeri quello che i numeri dicono e che non autorizzano invece a pensare, e così via. Ecco, io non faccio parte di quelli che scambiano il dovere di credere nelle nostre forze come Italia, che è giusto, con l'ottimismo di dire "Ah, è fatta". No, non è così. Allora, andiamo al punto del giorno. L'argomento del giorno sono alcune considerazioni intorno alla promessa che uscì dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, la riforma della giustizia. Sapete che sono numerosissimi i punti in realtà toccati dai diversi provvedimenti messi a punto con mesi di trattative che fanno discutere molto, trattative anche con Forza Italia e così via, del ministro della giustizia Orlando. C'è una promessa molto impegnativa di diminuire il 50% l'arretrato della giustizia civile, ma ci sono poi anche punti delicati. E figuriamoci, sulla giustizia civile e 5 milioni di cause arretrate in meno non si può che essere d'accordo, tranne il fatto che capire se poi sarà davvero così. Ma ci sono alcuni punti che a me fanno molto riflettere. E mi fanno riflettere, lo dico subito, finendo questa introduzione, ponendo due domande e poi presentandovi l'ospite, che ovviamente ne sa molto più di me. Mi fanno riflettere per come la penso io, perché sono un liberale, non l'ho mai nascosto. Io credo nel fatto che, per esempio, le norme dell'ordinamento giuridico debbano essere incardinate su che cosa? Sulla priorità di garantire il cittadino dagli eccessi dello Stato, non garantire lo Stato sulla necessità di affermare il suo punto di vista etico. E allora ci sono due punti in particolare sui quali mi interrogo e chiedo anche a voi di scriverci gli sms o di telefonare all'800 24 00 24 per gli sms 349 238 66 per dirci come la pensate, perché può essere che io sia in minoranza assoluta. Il primo punto riguarda le prescrizioni. Che cos'è la prescrizione? Cioè il tempo trascorso il quale cade la possibilità di perseguire un reato. Ecco, la prescrizione per me, sono liberale, è un istituto a garanzia appunto del cittadino contro gli eccessi dello Stato che voglia, quando gli pare, riaprire un caso o che ci metta l'ira di Dio per celebrare un processo dopo il primo rinvio a giudizio. E mi sembra questa una buona ricordarlo, si faccia bene a ricordarlo. con l'intervento che viene annunciato, la prescrizione torna ad allungarsi, perché si dice no, la prescrizione con Cirielli e altre leggi molto discutibili, anche leggi ad persona per via di Berlusconi e così via, è stata diminuita ed è oramai in tempi che non sono compatibili con la possibilità dello Stato di celebrare davvero così in fretta questi processi, quindi diventa una cosa a favore dei rei. Allora, la domanda che io mi faccio è: ma vi sembra davvero così poco, visto che con le norme attuali noi abbiamo 7 anni e mezzo in media per la prescrizione dei reati, diciamo così, meno gravi? Per una bancarotta fraudolenta la prescrizione diventa 12 anni e mezzo, per un'associazione a delinquere non particolarmente aggravata, cioè ordinaria, diventano 15 anni. Sono così brevi questi tempi da impedire un processo in tempi ragionevoli? Bisogna riallungarla questa prescrizione? Prima domanda. Seconda domanda: sapete che si discute molto della necessità, dell'opportunità, anzi, di tornare sulle norme sulla responsabilità del magistrato, dopo che un referendum degli italiani aveva detto chiaramente che gli italiani erano favorevoli, e poi in realtà sono stati solo 4 negli anni da allora i casi davvero di applicazione di una responsabilità che resta indiretta dei magistrati. Resta la responsabilità indiretta anche nella riforma annunciata da Orlando, ma c'è una cosa positiva: non c'è più il filtro di altri giudici per l'ammissibilità o meno del possibile giudizio di rivalsa. Lo Stato si può a quel punto rivalere, se perde il giudizio, nei confronti di chi ha ricorso, nei confronti del magistrato per dolo o colpa grave, e si alza l'asticella di questo danno al quale chiamare il solido anche il magistrato fino al 50%, oggi era il 30% della sua retribuzione. Domanda da parte mia: ma visto che il limite sulla retribuzione, i compensi, il reddito non c'è per gli altri professionisti, non c'è per un medico che opera, non c'è per un ingegnere che firma un progetto, perché ci deve essere questo limite per la retribuzione entro il 50% del magistrato? Ecco, io mi limito a fare queste due domande e a presentarvi l'ospite per sapere come la pensa lui. Abbiamo con noi il presidente dell'Unione delle Camere Penali, perché penso che sia giusto sentire diverse parti e non solo i magistrati, che hanno avuto l'80% delle interviste sul giornale nelle scorse settimane. Il presidente dell'Unione delle Camere Penali, Valerio Spigarelli, grazie e buon pomeriggio di essere qui con noi. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, cominciamo da questi primi due punti e poi vediamo i tanti della riforma. Sulle prescrizioni, lei come la pensa? Allora, io la penso sostanzialmente come lei e, come dire, porto alla discussione qualche elemento in più. E si dice che la prescrizione è il male del processo italiano. Ed è perché si dice aiuta gli atteggiamenti dilatori nel processo. Dilatori, ecco, infatti entriamo proprio in media stress sugli atteggiamenti dilatori. E si dice che la colpa è vostra. Si dice che la colpa è nostra. Ora, le statistiche del Ministero, faccio riferimento a documenti del 2011 e del 2012, dicono expressis verbis questo, Giannino: la prescrizione è in costante calo dal 2006, anno di entrata in vigore di quella norma che lei ricordava, che peraltro poi abbreviava la prescrizione per un po' di reati, ma per molti altri l'allungava. Dal 2006 la prescrizione è calata del 50%, un bell'obiettivo a me pare, no? Da 250.000 prescrizioni l'anno siamo alla metà. Quindi non è vero che è un problema ingravescente, è un problema che semmai si sta evolvendo in maniera positiva. Ma la cosa più interessante è dove si prescrivono i reati, che significa anche perché si prescrivono i reati, perché gira la leggenda metropolitana che ci sono le cosiddette tattiche dilatorie. Ora, anche qui, dal 2006, ogni volta che un avvocato chiede di far slittare un processo per motivi leciti, per un impedimento suo dell'assistito, per altri motivi, perché fa una richiesta di remissione del processo, la prescrizione si sospende per legge. Mentre il 60, quasi 70% di dichiarazioni di prescrizione riguardano e maturano nella fase delle indagini preliminari, quella fase, per essere chiari, in cui l'avvocato nulla può fare perché il processo ce l'ha in mano il pubblico ministero e l'avvocato non c'ha da fare tattiche dilatorie di nessun tipo, ma non perché siamo buoni, proprio perché non abbiamo la possibilità di farlo. Allora, se io leggo questi dati, che ripeto non sono i miei, sono ministeriali, e voglio realmente risolvere il problema della prescrizione, che faccio? Beh, prima metto le mani nella vera tomba del processo, cioè nelle indagini preliminari, In secondo luogo, prendo in considerazione sostanzialmente non le tattiche dilatorie che non esistono più, ma i motivi per i quali i processi si rinviano quando poi riescono ad arrivare nella fase del dibattimento. Altro dato statistico frutto di una nostra ricerca statistica con l'Eurispes, quindi istituto indipendente: il 92% dei processi a dibattimento, cioè delle udienze che saltano non perché ci sia qualche cosa che fanno gli avvocati, ma perché lo Stato cita male i testimoni, non cita la polizia giudiziaria o la polizia giudiziaria ha magari giustamente qualche altra cosa da fare, ha i giudici che devono cambiare sede, insomma 100.000 motivi, 92% sul totale, che comportano lo slittamento dei processi. Allora, tiriamo le somme. Voglio risolvere il problema della prescrizione in Italia, ma allo stesso tempo voglio risolvere il problema della ragionevole durata del processo in Italia. L'ultima cosa che mi viene in mente di fare è sospendere la prescrizione per 2 anni dopo la sentenza di primo grado e per 1 anno dopo la sentenza di secondo grado, che è la proposta di cui stiamo discutendo. Mentre invece faccio intanto camminare per bene la macchina dello Stato, e qui non è che c'è da spendere molti soldi, se cito un testimone 6 volte nel posto sbagliato, non è che devo avere chissà che, devo avere solo un po' di sale in zucca nel fare le citazioni. E quando facemmo quella ricerca statistica scoprimmo che, siccome gli avvocati quando citano i testimoni gli mandano una raccomandata e la pagano, gli avvocati non sbagliano mai a fare le citazioni dei testimoni con una semplice raccomandata. Lo Stato nel 15% dei casi sbaglia, facendola magari con un ufficiale di polizia giudiziaria piuttosto che con un notificatore. Quindi, prima questione fondamentale è quella. Seconda questione è questo buco delle indagini preliminari, perché quello nasconde un altro problema che suppongo lei conosca, che da liberale dovrebbe aver caro. Noi abbiamo un principio che è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma sta scritto sulla Costituzione. Ma non è vero. E non è vero per quel dato che le ho ricordato inizialmente, e cioè se il 60% di reati si prescrivono nel corso delle indagini preliminari è perché volere o volere. Non possiamo far fronte al principio di obbligatorietà dell'azione penale. E allora i pubblici ministeri scelgono, e quando sono sinceri lo dichiarano nelle commissioni ministeriali, scelgono i reati magari più gravi, non dico di no, tant'è vero. Altra chicca statistica, qui discettiamo di prescrizioni avendo tutti in testa i grandi processi, o i processi ai colletti bianchi, o i processi a Berlusconi, o a chi vuole lei. In realtà il 70% di prescrizioni sono contravvenzioni edilizie, sì, sul totale. Sì. Di reati gravi se ne prescrivono pochissimi. Allora, io a questo punto, aspetti. È il problema della prescrizione. Aspetti un secondo, adesso noi dobbiamo andare alle strade, ma le faccio già la domanda, perché alcuni mi dicono poi: ah, ma tu chiami solo quelli che la pensano come te. No, io penso che non sono solo i magistrati ad avere titolo nel dibattito pubblico per parlare di prescrizione, durata dei processi, responsabilità dei magistrati. Secondo me i media guardano solo da una parte, prioritariamente da una parte. Fate qualunque controllo sullo spazio che è stato dato, il tempo che è stato dato nella radio e nelle televisioni, tra magistrati e avvocati, le parti del processo, e vedrete che è la mia opinione. Però molti ascoltatori non sono affatto convinti, spiegare di quello che stiamo dicendo. Per esempio, le leggo un messaggio che ci ha mandato Enrico, in maniera tale che poi risponde dopo l'interruzione sulla circolazione stradale. Enrico ci scrive: credo che però il rinvio a giudizio dovrebbe bloccare i termini di decorso della prescrizione, altro che dopo la condanna di primo grado. Dice dopo il rinvio a giudizio, Enrico, cioè se il termine è quello di contemperare sì i diritti della persona, ma anche la necessità per lo Stato di dare giudizio e formulare poi un giudizio, una volta che c'è il rinvio a giudizio si sospende, dice Enrico. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati 16:48, primi 49 secondi, siamo in diretta qui su Radio 24 di Milano. Oggi ci stiamo occupando di alcuni punti dell'annunciata riforma della giustizia su cui ha lavorato per mesi il ministro di giustizia Orlando. Stiamo parlando della prescrizione e un ascoltatore ci ha detto, Valerio Spigarelli, il nostro ospite, che è il presidente dell'Unione delle Camere Penali, gli prego di rispondere, perché dice però dovrebbe fermarsi già al rinvio a giudizio. Che diciamo al nostro ascoltatore Spigarelli? Opinione, è un'opinione sostenuta nell'Accademia da diverse posizioni, anche all'interno dell'avvocatura. Io mi limito a dire questo. Benissimo, stabiliamo questo principio. Visto che la prescrizione ha due anime, cioè da un lato è giustificata dal fatto che se lo Stato non ha più interesse a perseguire una certa cosa, allora è meglio che non lo faccia. E quindi rispetto a quest'anima l'esercizio dell'azione penale, cioè rinvio a giudizio, dimostra che lo Stato invece interesse ce l'avrebbe. Però che cosa significa bloccarla con il rinvio a giudizio? Certamente non può significare tenere il cittadino in balia di questo accertamento per tempi lunghissimi, perché questo nessuno lo propone. Allora, se si ragiona sulla scorta di questo aspetto della faccenda, bisognerebbe comunque parallelamente introdurre delle forme, come dicevo prima, intanto di verifica dell'obbligatorietà dell'azione penale, b, delle forme di prescrizione dell'azione, perché se il pubblico ministero, sapendo che se nel termine di 6 anni lui basta che 6 anni meno un giorno fa la richiesta di rinvio a giudizio, finire la trasmissione, poi per i prossimi 25 il cittadino potrebbe rimanere sotto processo. Quindi si utilizza tutti quei 6 anni, arriva all'ultimo giorno e poi si prende i 25. No. Allora noi dobbiamo stabilire delle forme che contemperano tutte queste esigenze, come lei giustamente diceva, quelle dello Stato ma anche quelle del cittadino. Anche se sì. Io le metterei prima, però vabbè. Ma si figuri, lo dice a me, ma io lo dico agli altri. Allora in questo caso quello che si dovrebbe stabilire sono delle forme. A di estinzione dell'azione per inerzia. Lei tenga conto che molti dei tempi che vogliono recuperare con questi 3 anni, cioè 2 anni tra la sentenza di primo grado e uno fino alla Cassazione, vengono consumati nel corso delle indagini preliminari, cioè i PM hanno per quello che diciamo prima preliminari. Dopodiché, perché non possono magari, tengono a bagnomaria un processo per un anno e mezzo, due, e poi tanto li recupereranno con l'appello. Ma tutto questo si gioca sulla pelle di un cittadino. Del cittadino giudicato. Allora sentiamo qualche nostro ascoltatore, cominciando da Walter, che ci chiama da Roma. Prego Walter. Buonasera, io sono un civilista. Sì. Volevo soltanto fare un appunto. A quel signore che appunto ostica l'interruzione della prescrizione a rinvio a giudizio, vorrei dire, non so se magari ha un figlio si trova invischiato in un procedimento, perché quando c'è poi il rinvio a giudizio c'è un carico pendente, quel ragazzo lui stesso non troverà mai lavoro, esatto, perché magari per tantissimo tempo. Seconda cosa invece sul civile, io faccio civile e cioè qui bisogna ragionare di giustizia come un asset strategico dell'economia di questo paese. Perché io che faccio commerciale, le imprese sono spaventate dall'investire, perché quando mi dicono quanto dura avvocato una causa per far dichiarare la risoluzione di un contratto, eccetera, dico 5-6 anni, la causa nemmeno la fanno. Allora io faccio questa proposta, sì, perché altrimenti si rischia di mettere le gomme di una Ferrari su una 500. E facciamo la proposta. La proposta è questa, ci sono 8.900 magistrati, in realtà sul campo ce ne sono circa 6.000, perché sì, 3.000 sono nelle commissioni, esatto, ministeriali, eccetera, eccetera. Prima proposta, allora se un soggetto vuol fare il magistrato deve stare sul campo, bravo, altrimenti dopo 2 anni deve smettersi in aspettativa, bravo, e fare un'altra cosa. Non passerà mai. Seconda proposta, ovviamente con tutte le cautele del caso in riferimento al mantenimento della professionalità, i magistrati devono triplicarsi, devono essere 20.000, quindi fare dei concorsi straordinari, perché siamo in una vera e propria emergenza. Terza cosa, noi abbiamo dei giudici che sono monocratici e altri giudici che sono collegiali. Nella realtà chi ha esperienza sa che il relatore orienta gli altri due giudici, quindi che senso ha avere, quindi lei dice più monocratici abbiamo meglio è, così rendiamo, esatto, più disponibili risorse. Walter, la devo fermare qua perché le tre proposte sono già una controriforma rispetto a quella che abbiamo letto. Nel frattempo le agenzie hanno battuto un comunicato che è inerente alla materia di cui stiamo trattando, perché il capo dello Stato ha scritto ai presidenti di Camera e Senato pregandoli di adoperarsi presso i gruppi parlamentari di ciascuna Camera per conseguire le convergenze tra maggioranza e opposizioni necessarie per il raggiungimento raggiungimento delle maggioranze richieste per l'elezione di due giudici della consulta di 8 componenti del CSM. Tenete conto che il CSM ha rinviato molte nomine per uffici giudiziari e procure di prima grandezza, anche con molte polemiche con lettera del capo dello Stato poco prima dell'interruzione agostana, proprio per queste ragioni e anche per aspettare i nuovi togati eletti per accordi di correnti, perché funziona così il CSM, non è proprio la giustizia che non ha a che vedere con le correnti della vita associativa della magistratura, contro la quale non ho nulla, ma basta che però poi non facciano il giudice bocca della legge quando conta molto nei loro incarichi gli accordi tra correnti, esattamente come quelli dei vecchi partiti. La domanda che io faccio a Spigarelli a questo punto è: ma come mai, se vogliamo parlare di smaltire gli arretrati, a Torino 14 anni fa un capo dell'ufficio giudiziario, senza riforme, senza interventi istituzionali e ordinamentali, riuscì a smaltire il carico, mostrando sul campo che un capo di un ufficio giudiziario dovrebbe essere innanzitutto un bravo manager nell'amministrare e motivare le risorse umane che gli sono affidate? Come mai invece nelle nomine dei vertici degli uffici giudiziari i criteri di produttività, cioè quanto ho smaltito in quanto tempo, non contano mai in Italia? Ma guardi, non è tanto che non contano, ma qui l'equivoco è un altro, perché in quel caso Barbuto, si chiamava il presidente, bravissimo, ha anche doti manageriali, ma è un caso. E semmai bisogna rivoltare la domanda: ma perché per organizzare il lavoro amministrativo di una macchina complessa come un grande tribunale, penso a quello di Roma che è il più grande d'Europa, ci deve stare un magistrato? Ma perché non ci deve stare un manager? Ma è molto meglio se c'è un manager, tutto funziona molto meglio se c'è uno che fa il lavoro suo, perché questo non è il lavoro dei magistrati. Sulla indicazione del collega che era intervenuto prima, c'è un problema di magistrati fuori ruolo che occupano posti fondamentali nell'amministrazione. Fortunatamente non sono 3.000, sono circa 300, ma non è tanto il fatto che sottraggano forza lavoro alla magistratura, quanto il fatto che invece occupino delle posizioni, per esempio in tutti, certo, gli uffici legislativi, per esempio in molti capi di gabinetto, per esempio alla consulta, per esempio alla presidenza della Repubblica, guardi gli esempi non finiscono più, che tra l'altro produce un problema, quello sì importante per la libertà e l'indipendenza della magistratura, perché quelli sono posti di contatto tra poteri dello Stato, in cui c'è questa curiosa commissione, poi alla fine non si capisce bene chi comanda. Io una mia opinione ce l'ho, per esempio, sulle produzioni legislative. Sulle produzioni legislative ne parliamo da anni. Sentiamo un altro ascoltatore, Giuseppe, che ci chiama da Treviso. Prego, Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno. È molto interessante, e sono stato magistrato, sono magistrato in pensione. Concordo completamente con quello che ha detto ora l'interlocutore, non mi ricordo il nome. Spigarelli, il presidente della Camera. Se un bravo magistrato deve fare organizzare il tribunale, la corte d'appello, non ha senso. Un bravo magistrato deve fare sentenze, certo, non deve organizzare, non sono portati, non so. Io ho conosciuto magnifici magistrati, ma dal punto di vista organizzativo non capivano, lasciavano correre, poi c'è. Certo. Vuole un manager, punto. Sì, assolutamente. E anche i magistrati che sono fuori ruolo. Ma che discorso è questo qua? Bravissimo. Il magistrato deve fare sentenze, deve fare giudizio. Giuseppe, abbiamo finito il tempo, però torneremo anche sul problema della rivalsa e dei limiti della rivalsa nei confronti della responsabilità del magistrato entro il 50% della sua retribuzione. Non capisco perché al magistrato sì e agli altri professionisti no. Ringrazio, quindi reinvito Valerio Spigarelli, ma comunque adesso vi do appuntamento domani. Continuate con Radio 24.